Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Inchiesta sulle infiltrazioni della mafia nei lavori dell'Expo, 11 arresti, coinvolta l'azienda che ha realizzato, tra gli altri, il padiglione della Francia. L'indagine che tocca il Ministero dell'Interno, si parla di curricula inviati dal padre di Alfano per raccomandazione alle Poste, ma lui replica: una barbarie, mio padre è malato. Nuovo calo delle borse, mentre Monte dei Paschi rimbalza, più 8%, ancora in calo la sterlina e timori per il settore immobiliare britannico. E arriva il rapporto inglese sulla guerra in Iraq. Blair decise per l'attacco prima che fossero esaurite le altre opzioni. Sono con te comunque, disse a Bush. Lo schiaffo dei consiglieri 5 Stelle di Roma al PD. Si siedono sugli scranni di sinistra. Intanto si va componendo la giunta Raggi. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'annuncio dei nomi. Una buona giornata da Simone Spezia. Bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti: il 349-238-6666 per i vostri sms, per i vostri messaggi su WhatsApp. Se volete c'è anche il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno, nel quale vi diamo qualche anticipazione. Poi andate sul nostro sito www.radio24.it, dove trovate anche il sunto della nostra puntata tramite una mappa. In apertura dunque parliamo dell'inchiesta su Expo, no, meglio sulla fiera. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Le mani della mafia su un pezzo dell'imprenditoria milanese, gli affari dei boss siciliani anche sui padiglioni di Expo. È ancora una volta un intreccio tra cosche e criminalità economica, quello che racconta l'ultima inchiesta dell'antimafia milanese guidata da Ilda Boccassini, che ha portato in carcere 11 persone e determinato il commissariamento di una partecipata della Fiera di Milano, la Nolo Stand. È con questa che infatti ha fatto affari per almeno 18 milioni la cooperativa Dominus, i cui vertici sono stati portati in carcere per essere stati il ponte, secondo l'accusa, tra la cosca nissena della città di Pietrapersia e una controllata della Fiera di Milano, la Nolo Stand appunto, di cui però nessuno degli amministratori risulta indagato, anche se il GIP nella sua ordinanza non manca di sottolineare la censurabile sottovalutazione, scrive, delle evidenti anomalie in atto. Ma i meccanismi legislativi, spiega il PM Paolo Storari, nonostante i codici etici, nonostante l'autority anticorruzione di cui tanto si è parlato a proposito di Expo, nonostante appunto il modello trasparenza di Expo, permettevano anche legittimamente questi affidamenti diretti. Sentiamo il PM. Sono fisiologicamente affidamenti diretti, non sono gare pubbliche. Cioè, questo è importante da sottolineare. Fiera non fa gare pubbliche, o meglio, Nolo Stand non fa gare pubbliche. Certo, se poi mi dice abbiamo di fatto una società a partecipazione pubblica che non è tenuta, ma legislativamente non è tenuta a fare gare pubbliche, questo è un problema di carattere non nostro. Legislativo, una riflessione da fare. Da fare, forse, perché è chiaro che abbiamo un ente pubblico che non fa gare. Francia, Guinea, Qatar e quello dello sponsor Birra Poretti, i padiglioni di Expo che sarebbero stati realizzati appunto da questa società che portava da Milano in Sicilia i soldi anche in contanti, a volte in buste di plastica, come quelle che sono state trovate ad un noto avvocato che è stato fermato, un noto avvocato siciliano, ma a volte nascoste anche all'interno di un canotto. L'inchiesta comunque non è finita, come hanno spiegato i magistrati, e ruota ancora sulla capacità di verificare o meno quanto avvenisse al suo interno da parte della galassia imprenditoriale milanese. E per ora dal Palazzo di Giustizia di Milano è tutto. Ti ringrazio, grazie alla nostra Raffaella Calandra. Inevitabili anche gli impatti politici di tutto questo. Abbiamo raccolto un commento dal presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni. La prima cosa che ho pensato, ho detto che non finisce mai questa storia, no? E quindi, ma va bene così, la magistratura deve fare il suo corso ed è giusto. Sappiamo che ci sono infiltrazioni della mafia e della camorra e ci auguravamo che anche con l'intervento di Cantone poi non succedessero queste cose, invece probabilmente evidentemente sono successe. Adesso bisogna accendere tutti i riflettori e accendere tutti i fari. Ho visto che sarebbe coinvolta in qualche modo anche la fiera e quindi mi attiverò proprio per sentire i vertici di fiera e capire se sanno qualche cosa, nel rispetto ovviamente delle attività investigative, ma per quanto mi riguarda come azionista della fiera voglio capire che cosa c'entra la fiera e se in qualche modo non ha fatto i controlli che doveva fare. Questo il quadro dunque per quanto riguarda quest'inchiesta. Parliamo adesso della Brexit e degli effetti della Brexit. Oggi è una giornata ancora pesante sui mercati, soprattutto a Milano, dove il FTSE MIB cede il 2,27%, il FTSE All Share il 2,25%, Parigi cede il 2,17%, Francoforte il 2,10%, Londra cede l'1,05%, ed è una giornata nella quale torna a salire Monte dei Paschi, rimbalza, guadagna circa il 10%, mentre negativi sono molti altri titoli. Più avanti torneremo strettamente sui mercati, ma adesso vi parliamo di sterlina e di mercato immobiliare a Londra e in Gran Bretagna, perché ci sono su questo fronte molte preoccupazioni. Intimoriti dalle conseguenze della Brexit, gli investitori corrono per smobilizzare le quote detenute nei fondi immobiliari britannici, che bloccano i riscatti. Prima Standard Life, poi Aviva, infine M&G sospendono temporaneamente i rimborsi. In un clima di incertezza, infatti, la liquidità scarseggia, le richieste salgono e le società hanno bisogno di tempo per cercare di vendere gli asset, fare cassa e ripagare chi vuole uscire. La corsa alla vendita di immobili potrebbe però portare a un crollo ulteriore dei prezzi di uffici, grandi magazzini, negozi, abitazioni e così via, e innescare una sorta di spirale, proprio come è successo con la crisi subprime nel 2007. A ciò si aggiungono due fattori: una sorta di bolla del mercato immobiliare e l'elevato indebitamento delle famiglie inglesi, che hanno contratto mutui per comprare case dal valore decisamente alto, così come sono alti i rischi nel caso di una fuga massiccia di capitali e la sterlina crolla a un nuovo minimo dal 1985. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per quanto riguarda l'Italia, l'attenzione resta, come si diceva, concentrata ancora sul Monte dei Paschi e in generale sulle trattative del nostro paese con Bruxelles per intervenire sulle banche. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Partiamo subito da un comunicato di questa mattina del sottosegretario all'economia Baretta. Nessun intervento è previsto nelle prossime ore. Si sta monitorando la situazione d'intesa con l'Unione Europea, dice Baretta, che ha tra l'altro Simone la delega proprio alle banche. Ma qual è il nodo della trattativa con Bruxelles? Salvare gli istituti, se ce ne dovesse essere bisogno, senza far pagare il conto agli investitori. Nel caso particolare di Monte Paschi, lo Stato intenderebbe venire in soccorso con un aumento del capitale a finalità preventiva, con garanzia pubblica in vista della cessione di quasi 10 miliardi di crediti deteriorati, come da indicazioni BCE. Quanto alle risorse e fonti finanziarie, parlano di 2-3 miliardi, che è proprio quanto servirebbe al Monte dei Paschi per colmare il fabbisogno derivante dalla cessione dei non performing loans. Dalla Commissione intanto sembrano arrivare dei segnali di apertura. Limitare l'uso del denaro dei contribuenti è un principio fondamentale, ma un certo grado di flessibilità può essere necessario in certi casi eccezionali. Il governatore della Toscana Rossi infine dice: lo Stato entri nel capitale e prenda a calci i dirigenti. E per il momento è tutto, lì è in linea allo studio. E grazie dunque a Vincenzo Miglietta. Brexit, l'estate dell'incertezza. E prosegue il nostro appuntamento con Brexit, l'estate dell'incertezza, lo speciale quotidiano del Sole 24 Ore di 4 pagine dedicato ai vari aspetti pratici e ai rischi per i mercati. Un appuntamento quotidiano tanto per il Sole 24 Ore quanto per noi. Oggi parliamo di banche centrali. Sono passati poco più di 10 giorni dal referendum britannico, ma i danni provocati dall'uragano Brexit sui mercati sembrano più limitati di quanto non si temesse nell'immediato. Niente di paragonabile alla crisi finanziaria culminata nel 2008 con il crack Lehman, né alla bufera che ha rischiato di travolgere il debito pubblico europeo, in particolare quello italiano, nel 2011 e nel 2012. Se quella scatenata dalla Gran Bretagna non passerà alla storia come la crisi del secolo, lo dobbiamo quasi sicuramente alle banche centrali, pronte questa volta a intervenire con le armi messe a punto proprio nelle precedenti situazioni difficili. Continua invece a preoccupare il quadro politico, il più fragile degli ultimi decenni in Europa. La crescente frammentazione e il minor sostegno che i governi hanno nei parlamenti e fra la popolazione potrebbe mettere a rischio le riforme e penalizzare la ripresa economica. Maximilian Cellino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E noi restiamo però in Gran Bretagna per parlare però di un altro argomento. Military action in Iraq might have been necessary at some point, but... La voce che sentite un po' distorta è quella di Sir John Chilcot, che ha presentato il rapporto sulla partecipazione britannica al conflitto in Iraq del 2003, un rapporto che fa emergere pesanti responsabilità per Tony Blair. Ci colleghiamo col corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, Leonardo Maisano. Leonardo, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, è un rapporto di una verità prevista, estremamente severo nei confronti di Tony Blair e di George Bush. Tra l'altro emerge che già nel un memo di Bush, di Blair a Bush, conferma che già nell'aprile del 2002 Blair aveva assicurato al presidente americano che sarebbe stato con lui a qualsiasi costo. Come dire, c'era una volontà politica espressa e scritta in un documento che la Chilcot Inquiry ha reso noto, in cui c'era già, come dire, la volontà politica del premier inglese di essere al fianco di quello del presidente americano in caso di conflitto. Addirittura dell'ipotesi di un regime change in Iraq, Bush e Blair ne avevano parlato nel dicembre del 2001, a 3 mesi dalle Torri Gemelle, quindi in un periodo assolutamente precedente, lontano anni luce da tutta l'inchiesta che poi le Nazioni Unite avrebbero fatto sulle armi di distruzione di massa. Armi di distruzione di massa che l'Iraq, secondo Chilcot, avrebbe forse un giorno potuto anche avere, ma che non c'era alcuna certezza avesse, per cui non c'era una minaccia imminente da parte di Saddam Hussein. Un rapporto che quindi, come dire, distrugge interamente l'impianto che sosteneva l'invasione e che ha spinto oggi Blair a fare una difesa abbastanza tenue, dicendo: io oggi torno per il bene del mio paese. Quello che esce da questo volume, perché parliamo da questi volumi, perché parliamo di 12 volumi di inchiesta raccolti in 7 anni di indagine, esce appunto la fotografia di un'invasione che non era necessaria e che non aveva le basi giuridiche per essere eseguita. Brevemente, Leonardo, questo può avere un impatto politico di qualche tipo, soprattutto penso all'interno del Partito Laburista? Il Partito Laburista ormai è in mano all'ala, diciamo così, più radicale, che già ha sempre visto Blair come fumo negli occhi proprio per l'invasione in Iraq, in primo luogo per l'invasione in Iraq. Quindi, voglio dire, i blairiani sono già ai margini della vita del Partito Laburista e probabilmente continueranno ad esserlo, anche se il Partito Laburista è in questo momento in grande difficoltà. Per quello che riguarda invece l'ipotetico, come dire, incriminazione di Blair, come qualcuno ha sostenuto per lungo tempo, la Chilcot Inquiry non prevede sviluppi del genere. È un'inchiesta conoscitiva che sta cercando di ricostruire la verità storica di quanto è accaduto. È difficile che possa esserci uno sviluppo del genere, ma certamente qualcuno ci proverà. Ti ringrazio, grazie dunque a Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, per questi aggiornamenti. Siamo alla pagina adesso di Politica Italiana, che si apre però in realtà con una pagina di cronaca giudiziaria ancora una volta. Dopo quello del fratello assunto alle Poste, nell'inchiesta romana sulla cricca degli appalti nei ministeri spunta anche il nome del padre di Angelino Alfano. A tirarlo in ballo è Marzia Capaccio, segretaria di Raffaele Pizza, il faccendiere, figura chiave dell'inchiesta. In un'intercettazione telefonica la donna, che è indagata, parla di 80 curriculum inviati dal padre del ministro, che avrebbe fatto pressioni per ottenere assunzioni, sempre alle Poste. È una barbarie illegale, dice oggi il titolare del Viminale. È indegno dare credito alle intercettazioni tra due segretarie che parlano di un uomo di 80 anni il cui fisico è da tempo fiaccato da una malattia che non lo rende pienamente autosufficiente, dice il ministro dell'Interno, che parla di scarti di inchiesta utilizzati a scopi politici. Contro di lui va invece all'attacco il Movimento 5 Stelle, secondo il quale Alfano ha il dovere di riferire quanto prima in Parlamento. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. I 5 Stelle, non solo loro naturalmente, ci sono problemi anche all'interno di NCD e problemi ovviamente che riguardano complessivamente la maggioranza. Elisabetta Fiorito, è così, no? Sì, un'inchiesta che rischia di portare addirittura alla crisi di governo. Una fronda di senatori del nuovo centrodestra chiede ad Angelino Alfano di uscire dall'esecutivo e tornare nel centrodestra. Giuseppe Esposito alza il tiro: dobbiamo uscire già da domani e se Renzi non regge non è un mio problema, quello che dovevamo fare l'abbiamo già fatto. Esposito Esposito, ricordiamo, è legato al capogruppo Renato Schifani ed è uno degli 8 parlamentari che lavorano per ricostruire il rapporto con il centrodestra. Nel frattempo il Movimento 5 Stelle e la Lega chiedono le dimissioni di Alfano, le intercettazioni inchiodano il ministro degli interni, dicono i 5 Stelle, le Poste Italiane sembravano una società per Alfano, tra il padre che inviava 80 curricula e l'assunzione del fratello. E questa assunzione è stata poi denunciata nel 2013, dicono, dal Movimento 5 Stelle in un'interrogazione parlamentare che non ha mai avuto risposta, mentre per Matteo Salvini della Lega Alfano si deve dimettere non per l'inchiesta, ma perché è incapace di difendere la sicurezza del paese. A te, Simone. Grazie anche ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Più avanti torneremo sulla politica, lo faremo nel nostro giro per l'Italia e andremo a Roma per fare il punto sulla giunta Raggi. Intanto ci occupiamo di calcio, prima di tutto con una notizia anche qua di cronaca giudiziaria, perché Leo Messi e il padre Jorge sono stati condannati a 21 mesi per frode fiscale. La condanna al Tribunale di Barcellona non prevede la detenzione in carcere in quanto inferiore ai 24 mesi. Messi era accusato all'erario spagnolo di aver frodato il fisco per un totale di 4,1 milioni di euro tra il 2007 e il 2009. Questo il quadro della cronaca giudiziaria calcistica, ma c'è anche una cronaca che ci attende, che è quella di questa sera della prima semifinale. Carlo Genta, ciao. Sì, ciao Simone. Cronaca stasera e cronaca domani, perché domani avremo la seconda semifinale e questa sera quella degli outsider. Il Portogallo, che lo ricordo fin qui non ha ancora vinto una partita nei 90 minuti, che ha avuto una discreta fortuna nell'arrivare fino a dove è arrivato, soprattutto se pensiamo al cammino dell'Italia, che non ha ancora avuto il miglior Cristiano Ronaldo al di là di una doppietta negli ottavi, e affronta il Galles, che è una delle grandi sorprese di questo europeo, che ha una stella invece estremamente brillante come Bale, compagno di squadra di Cristiano Ronaldo nel Real Madrid. Mancherà però un giocatore fondamentale per il Galles, cioè l'altra stella, Ramsey, che gioca nell'Arsenal e che fin qui forse è stato, insieme a Bale, il migliore, anzi certamente è stato con Bale il migliore del Galles. Questa è la prima semifinale, questa sera alle 21 e domani un grande classico del calcio europeo e mondiale come Francia-Germania. Ottimo Carlo, sicuro che ne parlerete alle 14 in tutti i convocati. Noi adesso ci fermiamo, c'è il traffico e poi iniziamo il nostro consueto giro per l'Italia e inizieremo dalle spiagge romagnole, dove abbiamo appreso un po' dai giornali locali, in particolare dal Resto del Carlino nei giorni scorsi, che c'è un problema, ci sono degli scolmatori che quando c'è troppa pioggia riversano l'acqua di fogna nelle acque e pare che di questa cosa si preoccupi un po' poca gente. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'inchiesta sulle infiltrazioni della mafia nei lavori dell'Expo, degli 11 arresti, del fatto che è coinvolta l'azienda che ha realizzato tra gli altri il padiglione della Francia. Abbiamo parlato dell'indagine che ha toccato anche il ministro dell'Interno, dei presunti curricula inviati dal padre per far assumere gente alle Poste e della replica dello stesso ministro. Abbiamo parlato del calo delle borse, ci torneremo tra poco, è del rimbalzo di Monte dei Paschi, abbiamo parlato del rapporto inglese sulla guerra in Iraq e infine abbiamo parlato di europei. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia. Il primo punto sulla mappa, no, mi dicono il primo punto sulla mappa non lo possiamo mettere ancora e sarà Rimini per parlare appunto di balneazione, di problemi di balneazione. A quanto pare ce l'abbiamo. Marco Calbucci, Bagnino, è presidente della cooperativa Bagnini di Palombina. Buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Allora, quello che abbiamo scoperto leggendo un po', no, le cronache locali, come spesso facciamo, è che esiste questo problema in alcune aree della riviera adriatica, non solo da voi, ma questo avviene appunto anche per esempio nella zona di Rimini, in alcune aree di Rimini e così via. Succede che c'è un problema di scolmatori, no? E nel momento nel quale piove troppo, sostanzialmente questi scolmatori buttano l'acqua di fogna in mare, ho capito bene? Sì, è esattamente così. È un problema che esiste quasi su tutti i comuni della costa del centro e Alto Adriatico. Purtroppo quando piove, negli ultimi anni le piogge sono piogge violente, le acque grigie si mischiano alle acque nere e la portata delle fogne non è sufficiente a contenerle. I comuni cosa hanno fatto? Hanno predisposto degli scolmatori e buttano l'acqua in eccesso. Finché hanno potuto hanno tenuto la cosa nascosta. Ora non ci sono più riusciti perché da qualche anno, insomma, con i media, con internet, i video girano e non sono riusciti più a contenere la cosa, sono stati costretti a emanare delle ordinanze quadro, sì. Ordinanze con divieti di balneazione. Sì. Quindi in sostanza non si risolve il problema alla radice, ma che cosa si fa? Si dice qua la balneazione non si può fare. Tra l'altro, da quel che ho capito, c'è anche un problema di tempi, nel senso che questi fanno le analisi e poi ci vogliono 48 ore prima di dire che quest'acqua non è balneabile, il che vuol dire che nel frattempo chi va a farsi il bagno se lo fa letteralmente nella cacca. Sì. Diciamo che al momento c'è un attimo di confusione perché c'è una legge nazionale che prevede che ARPAM faccia i controlli dopo 24 ore e dopo 48 si ottengono i risultati, quindi la balneazione viene riaperta non prima di 72 ore, però in realtà non c'è uno studio approfondito da un biologo marino o da una società, insomma, che dice che riesce a dire in quante ore realmente il mare riesce a smaltire questi sversamenti, tant'è che la regione Emilia-Romagna per prima ha fatto un protocollo innovativo dove ha sviluppato dei suoi calcoli matematici, un protocollo che è durato 3 anni e l'ha fatto sulla città di Rimini, una città che vive di turismo e non poteva star ferma 72 certo. ore, e hanno scoperto che dopo neanche se una decina d'ore l'acqua è già balneabile, tant'è che l'ordinanza quadro di Rimini prevede la riapertura della balneazione dopo 18 ore. Ok. Vorrei ricordare che è una ordinanza di tipo sanitario, quindi a tutela del cittadino. Sì. E se il comune di Rimini ha messo 18 ore, vuol dire che 18 ore ci sta anche la salute del cittadino. Sì. E riesce anche a salvaguardare gli interessi dei balneari. Sì. Da voi, appunto, nelle Marche invece è un po' più problematico, mi è sembrato di capire, no? Sì, è un po' più problematico, purtroppo però il problema non è del comune, il comune si è dovuto attenere per forza a una norma regionale e la regione si attiene alla norma nazionale che prevede appunto queste 72 ore. Dopo bisognerà cercare adesso col tempo, tanto è un problema che non si risolverà in pochi anni. Di snellire l'ordinanza perché in questo momento siamo nelle mani dell'ufficio di igiene, quindi se lo sversamento avviene di notte e l'ufficio riapre alle 9 della mattina, cioè l'ordinanza non arriva prima delle 11. È meravigliosa la cosa. Il bagno alle 8 della mattina lo fa senza ammesso che lo faccia, ma tanto anche se apre alle 9 del mattino comunque ci vogliono 48 ore per avere i risultati e quindi intanto viene emesso il divieto, cioè sarebbe importante che nel momento che scolma un minuto dopo ci sia qualcuno in grado di mettere su i cartelli di divieto. Ma non si riesce a risolvere alla radice questo problema? Cioè non c'è un modo, un depuratore, non lo so. Insomma, il depuratore esiste, il problema è che c'è una normativa europea che prevede che le acque grigie dovrebbero essere divise dalle acque nere, quindi in sostanza ci dovrebbero essere due fognature in ogni città. Però purtroppo, tant'è che se uno costruisce una casa nuova adesso, il comune lo obbliga a fare questa cosa. Però purtroppo invece i comuni non sono dotati di doppia fognatura. Non tutti. Rimini, per dire, è riuscito a trovare i fondi necessari e si sta adottando. Già mezza città è riuscita a farlo. Però ancora no. Abbiamo in mano un preventivo che parla di una spesa fra i 50 e i 60 milioni di euro. Qua non ci sono ancora i soldi neanche per tenere asfaltate le strade. Immaginiamoci per fare le fogne sotto, quindi penso che il problema, se si risolverà, in non meno di 10 anni, insomma, il tempo per trovare i fondi che andranno reperiti fra l'Europa, non certo dentro la regione. Comunque per risolvere il problema alla radice bisogna dividere le fognature. Allora io la ringrazio, grazie a Marco Calbucci che è presidente della cooperativa Bagnini di Palombina. Poi qualche ascoltatore ci scrive e ci dice: guardate che a Rimini stanno cercando di risolvere il problema facendo un'opera molto grande, e magari nei prossimi giorni faremo uno squillo anche al sindaco di Rimini e ce la faremo raccontare questa cosa, ma magari domani stesso, visto che siamo sotto estate e insomma più o meno meno, stanno partendo tutti, mi sembra un argomento discretamente interessante. Torniamo invece a parlare di migranti, adesso lo facciamo mettendo il prossimo punto sulla mappa a Vicenza, lo facciamo con Massimo Marchesiello che è viceprefetto vicario. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. E grazie per aver accettato il nostro invito, perché era un tema del quale ci eravamo già occupati, in particolare riguardo a Vicenza il problema che riguarda i sindaci che non vogliono accettare un sistema di accoglienza diffusa dei migranti, quindi poche risposte alla prefettura, la prefettura che si deve sostanzialmente, Marchesiello, muovere da sola. Insomma, un mese fa ci fu una riunione col prefetto che poi avemmo in diretta e che era abbastanza innervosito con i sindaci perché dice almeno quantomeno rispondetemi, invece ci sono sindaci che non si sono nemmeno presentati alla riunione. Come intendete procedere? Perché mi sembra che la situazione stia sull'accoglienza, stiamo arrivando al limite, no? Sì, assolutamente, ci stiamo innervosendo tutti perché dal prefetto in poi, quindi tutta la catena di comando e i colleghi che stanno contribuendo alla ricerca di soluzioni alloggiative, questa è la cosa emblematica, cioè non sono i sindaci, o meglio ogni tanto qualche sindaco di buona volontà propone qualche soluzione, ma la maggior parte dei rapporti che abbiamo con le cooperative sono curati da noi, le cooperative e eventualmente le strutture alberghiere che si mettono a disposizione, e non le racconto le difficoltà che stanno dietro, quindi le resistenze, le ostruzioni e via. Cioè da parte delle stesse amministrazioni locali? Da parte delle stesse amministrazioni, purtroppo, e questo è il clima che purtroppo stiamo incontrando anche di recente, con episodi anche abbastanza pesanti, a fronte di una proposta che il prefetto aveva avanzato in una seduta, una riunione appunto a cui lei si riferiva, collegiale, dove tutti i sindaci erano stati convocati, è stato raccolto per la metà, diciamo, il messaggio, come per la metà in realtà i sindaci ci hanno dato finora disponibilità di alloggi. Tenga conto, abbiamo 121 comuni, mi sembra che siamo sull'ordine di 56-57 comuni che comunque anche con numeri piccoli ci danno tra virgolette accoglienza. Ma per quanti, mi scusi, per quanti immigrati 1770, o profughi? 1770. 70, che sì, ovviamente sono quote che stanno sempre via aumentando. In questo periodo ovviamente ci stiamo preparando al peggio, avevamo preparato al peggio gli amministratori locali già da tempo, avevamo in un periodo anche abbastanza tranquillo, qual era quello diciamo di settembre-ottobre, varato, e sembrava un ottimo strumento, quello del protocollo di accoglienza diffusa, sì, che è una cosa di cui si parla massicciamente e diffusamente adesso. Sì, lo spieghiamo agli ascoltatori e lo facciamo in maniera molto semplice, perché poi anche molti ascoltatori ci scrivono, beh, dice i sindaci, anche i nostri sindaci fanno bene a reagire in questo modo. In realtà il sistema di accoglienza diffusa prevederebbe che, dato che ormai sul tuo territorio sono e non ci si può far niente, è inutile che ne metti 1000 tutti a Vicenza, mentre invece se metti 10 persone in un comune, 5 in un altro, 5 in un altro, la cosa si gestisce anche da un punto di vista, se vogliamo, dell'ordine pubblico un po' più semplicemente, no? Assolutamente così, ma è un messaggio talmente semplice e banale che dovrebbe essere raccolto da tutti. È ovvio che pochi sindaci che hanno raccolto il messaggio hanno messo a disposizione. Io tra l'altro insistevo molto sul ruolo di essere protagonisti dell'accoglienza, perché non deve essere la prefettura a cercare attraverso le cooperative le soluzioni alloggiative. Siete voi sindaci, siete voi amministratori locali che conoscete meglio di noi il territorio, a dirci, a proporci delle soluzioni che sostanzialmente contemperino problematiche di ordine pubblico e di eventuali tensioni con le nostre esigenze, che non sono solo nostre ma devono essere di tutto il territorio. Anche perché se no intervenite voi d'imperio, cioè nel momento in cui il sindaco non opera una scelta, se voi decidete a un certo punto che là c'è una struttura adeguata all'accoglienza, scegliete quella struttura, affidate, i migranti vanno là, il sindaco non ha più né parola né potere di controllo, per così dire, sulla cosa, no? Se fossimo in un paese normale, sì. Però non siamo in un paese normale, perché abbiamo 1000 modi per aggirare questa nostra scelta, nel senso che comunque qualche problema poi ci può venire incontro, però le lascio l'aneddotica perché sennò non finiremmo mai. Però il discorso dell'accoglienza diffusa, come lei giustamente dice, funziona perché nel momento in cui io non ho grosse strutture di accoglienza ma Palmo con un criterio, si era immaginato, basato sulla, sì, sulla demografia, quindi sul, sulla popolazione residente in quel comune, o su altri minimi come dire, criteri, ma sì, si poteva sicuramente e si può spalmare molto meglio, molto, molto senza problemi di gestione. Ma il fatto che il sindaco sia, secondo me, protagonista della scelta della cooperativa, della scelta anche delle forme di volontariato, che possono essere sicuramente, ma che ormai sono recepite in tutto il territorio nazionale come coinvolgimento dei richiedenti, è sicuramente un'ottima cosa, sicuramente più gradita, sì, dai cittadini. Sì. Ma del resto ci scrive un ascoltatore che è piuttosto rabbioso su questo fronte, dice su, ci scrive su WhatsApp, comune di Sandrigo, 7.000 abitanti, più di 100 profughi, smettetela con le frottole. Ma infatti il tema è esattamente quello, cioè il tema di rendere più diffusa l'accoglienza. La ringrazio, grazie Massimo Marchesiello, viceprefetto vicario della prefettura di Vicenza, per essere stato con noi. Adesso ci fermiamo, come sempre andiamo a sentire cosa succede sui mercati. Poi, nella seconda parte della trasmissione, beh, abbiamo lasciato da parte per un attimo quello che è successo a Roma oggi. Le cronache, tanto dal Consiglio Comunale, dove i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle hanno deciso di sedersi a sinistra, rubando, aperte virgolette, il posto ai consiglieri del Partito Democratico, e tanto quanto le questioni della Giunta Raggi. A tra poco. Effetto giorno. L'inchiesta sulle infiltrazioni della mafia nei lavori dell'Expo, 11 arresti, coinvolta l'azienda che ha realizzato tra gli altri il padiglione della Francia. L'indagine che tocca il ministro dell'Interno, si parla di curricula inviati dal padre di Alfano per raccomandazioni, ma lui replica: una barbarie, è malato. La notizia di pochi istanti fa: è morto per annegamento Bo Solomon, lo studente americano spinto nel Tevere la notte tra il 30 e il 1 luglio scorso, dunque quando è stato gettato nel fiume non era morto. Nuovo calo delle borse, ci arriviamo tra un attimo, mentre Monte dei Paschi rimbalza, un più 8%, ancora giù la sterlina. Il rapporto inglese sulla guerra in Iraq: Blair decise per l'attacco prima che fossero esaurite le altre opzioni. Sono con te comunque, disse a Bush. Questi i nostri titoli per Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, è il momento della borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo con il nostro giro per l'Italia. Adesso mettiamo il prossimo punto sulla mappa a Roma. Roma, dove naturalmente l'attenzione è concentrata essenzialmente sulla formazione della Giunta Raggi e su quello che sta succedendo anche in Consiglio Comunale. Il servizio. La Giunta Raggi è pronta. Sono 9 gli assessori della squadra che governerà Roma per i prossimi 5 anni. Uomini e donne del neosindaco pentastellato saranno ufficialmente presentati domani nella prima riunione del Consiglio Comunale. Riunione che vedrà i consiglieri del Movimento 5 Stelle seduti sugli scranni di sinistra dell'Aula Giulio Cesare, occupati in passato dai rappresentanti del Partito Democratico. Gli altri 19, dice il consigliere del Movimento 5 Stelle Enrico Stefano, si posizioneranno dove riterranno più opportuno. È una loro scelta. Sciolti gli ultimi nodi e le polemiche interne al Movimento 5 Stelle che avevano accompagnato le scelte di Raggi di nominare Daniele Frongia capo di gabinetto e Raffaele Marra, ex collaboratore della Giunta Alemanno, vice capo di gabinetto, la squadra pentastellata dovrebbe iniziare a lavorare nei prossimi giorni. L'assessorato al bilancio e alle partecipate, due settori molto delicati, andrà Marcello Minenna, dirigente Consob, già arruolato come esperto nella segreteria tecnica del commissario straordinario Francesco Paolo Tronca. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per chiudere usciamo invece dall'Italia e andiamo su una cosa della quale vi avevamo detto nei titoli. Si tratta della vicenda di Oscar Pistorius, che è stato condannato. Era il 14 febbraio del 2013, il giorno di San Valentino, e Riva Steenkamps, modella di 29 anni, la fidanzata di Pistorius, moriva sotto 4 colpi di arma da fuoco. L'atleta paralimpico veniva arrestato subito dopo con l'accusa di omicidio. Da quel momento è iniziata la saga giudiziaria che tiene appesi i media di tutto il mondo da 3 anni. Sono stati ascoltati 37 testimoni e non sono mancati i colpi di scena, a partire dalla missione del 6 volte campione paralimpico entrato nella leggenda gareggiando con le protesi ai Giochi di Londra nel 2013. 2012, e cioè di aver sparato alla ragazza scambiandola per un intruso, 4 colpi di pistola attraverso la porta del bagno chiusa, nella casa dove i due convivevano. A dicembre la Corte d'Appello ha ribaltato la sentenza di omicidio colposo, riconoscendolo colpevole di omicidio volontario, un reato per cui è prevista in Sudafrica una pena minima di 15 anni, ma l'ex campione paralimpico sudafricano ha evitato la pena più dura. Secondo i giudici, le circostanze attenuanti superano i fattori aggravanti. Dal 20 ottobre Pistorius era agli arresti domiciliari presso un suo zio a Pretoria, dopo aver scontato un anno di prigione. All'annuncio del verdetto, dopo aver baciato e abbracciato la sorella, è stato accompagnato in carcere, verso una cella, nei sotterranei del tribunale. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. È il momento del traffico di Mario Platero. Ci risentiamo alla fine per i saluti.